Aspetta, il insensato, povera Rosina, resta in brollo. Io non più repliche, Rosina voglio. Voglio la sposa, signora sì. Thank you. Ciascun farò tre